passaggio adesso è andato bene. O sono io che ho qualche problema qua, Gianni. Ehi, ascolta, vede. No, Natalino, ma ci abbiamo nuda. C'è sempre questo ronzio in sottofondo. Te lo ricordi, stamattina non ne avevo. Ah, boh, adesso non... Non mi ricordo. Beh, se non ho detto niente, evidentemente non c'era. Sto usando anche il microfono normale, dimmi tu. Boh, I don't know, non disco. Non so che dirti. Ti potrei dire di provare a rimettere l'MB più 4, ma boh, non lo so. Per vedere se è questione di microfono. Ma non sta andando male, va bene. Si porta questo ronzio sotto qua. Io adesso ho alzato un po' il volume, c'ho anche l'altoparlante frontale, quindi lo sento proprio nitido. No, io qua non lo sento. Oh, prova a vedere, adesso ho messo l'MB più 4. Niente ronzio, perfetto Natale. Probabilmente qualche connessione del microfono, qualche serratura fredda, qualcosa del genere, insomma. Boh, cosa vuoi che ti dica? Questo è l'MB più 4. Perfetto. Perfetto anche da questa parte. Ma... Eppure il microfono originale, quello lì, io non l'ho aperto assolutamente. Sì, come ha detto Gianni, magari qualche saldaturina di fabbrica un po' fredda. Guarda, è capitato tante volte con questi apparati qua, anche con i componenti classici, un sacco di gente si era lamentata di saldature fredde anche nel circuito stampato, no? Ma che vuoi che ti dica? Guarda, ma quell'altro microfono c'avevo poco fa, te l'ho detto che era un accrocchio. Sicuramente la batteria che si è scaricata, perché quando l'avevo agganciato avevo fatto i primi test con la traria, mi ascoltavo e non avevo nessun ronzio. Probabilmente magari si sta scaricando la batteria, vabbè. Questa è nuova la batteria, gliel'ho appena cambiata. Ottima modulazione, Natalino. Non toccare più nulla, va benissimo così. Perché lo sapevo che non era l'alimentatore. Beh, sono nuovi. Sai cosa? Se hai la possibilità e se ti vuoi pensare, magari conviene riprendere magari le saldaturine che ci sono nel palmare, dove c'è il PTT, insomma, con un saldaturino di quelli piccoli, e provare a riprendere tutte le saldature. Sicuramente qualcosa del genere, amico. Oppure magari qualche saldatura fredda nello spinotto, boh. Ma che ne so, vabbè là. Va bene così. Marco. Sappa. Conosci la IMAX 2000? Ah sì, ne state parlando, stavate parlando poco fa. Solar con IMAX 2000, sì. E fibre di vetro, vabbè, radiali opzionali, oppure te li vendono assieme. Diciamo un'antenna americana che si fanno pagare sempre col sangue, alla fine. Cosa volevi sapere? Io non l'ho provata, però ho letto tante recensioni. Praticamente a molti li si è spezzata lo stesso con venti imponenti, quindi un'antenna perfetta non esiste. Dimmi. Stavo leggendo sul forum a Residenza, che è molto vantata con l'antenna per i 10 metri, che però aggiungendo quei radialini è perfetta anche sugli 11. Ma costa un botto, con i radiali se ne va 200 e passa euro, è un prezzo esagerato, è troppo. Forse ottima, magari ne varrebbe la pena, ma mi sa proprio che è come le altre. Sì, praticamente ci fanno pagare un sacco queste americanate, ma ti dirò di più. Io ho visto su eBay, venduta credo da un venditore italiano, la Maco 5000. antenna americana, coppia peraltro, a me sembra la coppia sputata della Mantova 1, Macro 5000 americana, quindi se americana tutti pensano sia perfetta, 300 euro, c'è una Mantova 1 scopiata, 300 euro. Esagerati, caspita. Sì, ma infatti, perché uno pensa che i prodotti americani siano un po' migliori, poi premetto che comunque per la Solar con eccetera, io non amo la vetroresina, a me piace più l'alluminio, è un gusto personale, non lo so, mi piace luccicante, mi piace il conduttore di generose dimensioni, non come la fibra di vetro che mettono un filettino dentro, un conduttore più o meno grosso e poi tutto il resto è vetroresina, non mi piace quella. E comunque, essendo la 5 ottavi, l'IMAX 2000 dovrebbe lavorare sempre con il radiale, perché se li togli sicuramente qualcosa va a perdere. Cioè, si vuole tirare di massa in una 5 ottavi, non ha senso comprarla senza i radiali, secondo me. Infatti, è risaputo che ci vogliono per il piano di massa, ci vogliono più ce ne sono, meglio è per la 5 ottavi. Vedi bene quelle antenne HF sempre verticali così, che mettono tanti radiali per terra, filari per il piano di massa, e più ce ne sono e meglio è, e più va bene l'antenna. E poi che altre antenne ci sono di quel tipo? Ce n'era una chiamata Antron, mi pare, Antron 99, mi pare forse in vetroresina anche quella. Quelle forse vanno bene in zone di mare, dove hai meno metallo esposto possibile, perché la salsedine distrugge tutto, si mangia il metallo che è una meraviglia. Ok, riprendi Natalino. Gianni? Eccomi qua. Via. E quindi Marco? Oh, via. A quanto pare non è successo nulla, dai. Niente di così eclatante. Oh, via. Ma non vedici uno, non ci sono stazioni lontane, cacchio. Per esempio Eugenio io non lo sento da un po'. L'avevo sentito 10 giorni fa, mi pare. E poi non più. Sta lavorando come un negro. Magari gira in camper, cosa ne sai? No, l'ho visto in moto al porto, passando in tenuta da lavoro, così di sfuggita. Ha una bella moto, è bella grossa. Un Harley Davidson. 1008, è manco piccola, no, 1008, c'ha un motore enorme. E cavolo, ma perché le Harley sono arrivate al 1800 cc di cilindrata? Io ero rimasto al 1340. Gianni, niente, sai. Già da un giorno che sono salite di cilindrata. Sì. Oh, yeah. Vabbè. La più grossa dovrebbe essere la Triumph Rocket, non so, tre cilindri. Penso che siamo oltre i 1800, forse 2000 e spiccioli. Questo senza vabbè, quelle sono molto vere almeno, no? Poi avevano fatto quelle Boss Hoss, praticamente era un gigantesco telaio, una moto tipo Harley gigantesca, un serbatoio enorme, e sotto ci mettevano un motore Chevrolet 5007 AV. Oppure se non 5007 anche, ho letto fino al 7009 di cilindrata, 7000, no, quasi 8000, siccome la benzina non costa, solo che sono moto talmente grosse e pesanti, il pneumatico è largo quanto una ruota di camion, che puoi andare solo dritto, non puoi piegare a un calemotto, vanno guidate in modo particolare, sono un incubo. Già ho capito, le Boss che montavano sia lo small block che il big block, dai. Il classico vuoto americano. No, per quanto mi risulta sono dei carrettoni, fai dai. È giusto quella per fare show, cazzo, alle mostre, ma show bike, dai, non è niente di che, a guidare ti voglio vedere con un carrettone del genere, un incubo, io ho visto un video di un ragazzo, dice no, qua non è, facendo i tornanti, mamma mia, dovevi sterzare come per la macchina, andare piano piano, siti nei gaggi, dice che pesava, quanto pesava, tipo può essere 800 kg, cioè non è nemmeno un motociclo, quello quando va oltre un certo peso, forse si guida con la patente della macchina. Ma già il 5007 a me sembrava una cosa folle, messa su due ruote, no? Quindi tutta la potenza su una ruota, ma addirittura 8000 di cilindrata. Poi ripeto, la benzina non costa niente, mi. Giusto uno sceicco se le può comprare, se le può permettere. E in America non costa molto la benzina, è qua che costa. E neanche a San Marino costa molto. Ma... sono dei carrettoni inutili, vabbè, esercizi di stile, di meccanica, poi per le funzionalità, bacca di dai, no, non c'è bene a nuda. Sono solo dei carrettoni, quasi un bel da burrotto, un altro vuoto su una moto, cosa te ne fai? Tu, a fare gli show, cazzo, a fare raduni, queste cose così, poi lì, vabbè, ce lo sai, come sono gli Yankee, cazzo, bacca di dai. Esagerati fino al midollo. Ciao Giacchi, è produttore del V8, del V8, se non le ho simili, è spettacolare. Però appunto fanno vedi a volume, ci fai il burnout partendo perché c'è talmente tanta potenza che credo che siamo una manca pure, cioè scese di quello fa. La coppia che deve avere con un motore. Aspetta, però mi sto perdendo, dove volevo arrivare? A parte quello, aspetta, motto, cos'era? Ma mi è passato il pensiero e proprio niente, aspetta, fammi fare mente locale. Chi è che si è sovrappopolato a Natalina, boh? Abbiamo parlato in due, scusa Natalì. Comunque sono molto assurde. Io ne ho provata una volta, una vecchia Elettra Glide. Tre marche aveva. Per tirare queste tre macce ci vogliono chilometri, proprio macce lunghissime che non adatte per le strade americane, non per qua, no? È proprio assurdo, e a tirarla prima ci vogliono un paio di chilometri. Sì, claro, quelli sono motori di cubatura grossa, corsa lunga, quelli c'è un sacco di coppia, anche a bassissima regine di giri, quelli stanno già camminando. E poi giustamente hai detto tu, la rapportatura non è fatta per le nostre strade. No vabbè, Eugenio e tutti gli amici, io ho insomma un sacco di gente che conosco, amici che ce l'hanno tuttora come Eugenio, però boh, non mi è personalmente a livello di gusto, non mi sono mai piaciute, cioè personalmente, vabbè, l'ho veduta, la mia l'ho veduta da poco, ma era una sport tourer scarenata giapponese, niente a che fare con quella roba lì. Sì, ci sono delle cose carine, però boh, nella maggior parte dei casi le trovo molto pacchiane. Sì, infatti. Anch'io l'ultima che avevo, la CBRF 1000 Honda, l'ho regalata a mio figlio e poi lui l'ha tenuta un po' e se l'ha rivenduta a sua volta. Era una bella moto, andava anche bene. Oh yeah. E adesso la moto è diventata un lusso. No. Troppi costi esagerati e tutte cose, poi ci sono altre priorità da mandare avanti, quindi anche io a malincuore l'ho dovuta vendere, ho fatto il passaggio l'altro giorno, la cosa che mi fa piacere è che l'ho venduta ad un appassionato, un amico che mi stava corteggiando non da poco, anzi da parecchio. me la vendi, alla fine ho ceduto e adesso è passato lui il testimone. La gente che va di là e bu. Gianni, ma tu hai dato quella con la stella rossa, quella che chiama quel MIG. No, quella a suo tempo era, no, l'avevo venduta già da, l'ho venduta già da diversi anni. No, l'altro, il ZRX 1200R, il Roswell Replica, che avevo comprato nuovo nel 2004. Quella lì, l'ho venduta, cioè, fatto il passaggio l'altro giorno. Io ero rimasto a quell'altra, non me la ricordo nemmeno quella lì. Ah già, ecco cosa ti volevo dire. L'avevi poi visto quel film recente intitolato Don't Look Up, non guardare in alto? Boh, forse ho visto la locandina, me ne stava parlando qualcuno, ma non ho dato uno sguardo. Boh, non lo so. No, ho fatto talmente indigestione di film durante il periodo degli arresti domiciliari, no? Adesso mi ha la nausea. No, la colorazione della moto precedente era di un Sukhoi 27, caccia intercettore russo. Ah, Sukhoi. Eia. Bellissima. Solo io mi potevo fare la moto mimetica con il colore di un caccia sovietico. Oh yeah. È una bella scena particolare, proprio la stella rossa. Oh yeah. Va bene, sì, quel film merita di essere visto, è un po' tipo classico esempio di stupidità all'americana, dai. Avanti Claudio. Io sono più portato per il film d'azione, tipo Yellow Tartan, quella roba lì. Mi piacciono tipo quei film lì. O se no, sto aspettando l'ultimo di Johnny Wick, il 4, che ancora in Italia non vuole arrivare. No, non riesco a trovarlo da nessuna parte. Ah, John Wick, io ho visto il primo, il secondo e il terzo. Il quarto, boh. No, non so se sia ancora uscito, boh. In compenso, un paio di settimane fa mi volevo togliere il gusto di vedere il Top Gun Maverick 2.0. No, non l'ho visto quello. Sai che non so chi, lo scrittore, ha fatto causa al film e lo voleva far ritirare? Perché dice che avrebbero preso spunti dai libri, dai suoi libri, senza chiedere, consultare o dare royalty. Non ho letto bene la cosa, però già casini c'erano lì. E ma quale? Top Gun, l'ultimo di Top Gun. Ho letto una notizia di sfuggita, e c'era l'autore o del libro, non so se lo sceneggiatore o chi era, che si è sentito escluso, offeso, non so in quali termini. Devo cercare comunque, lo volevano ritirare il film, manco uscito. E non aspettano altro che a pigliarsi per riuscire a tirar fuori qualche milione dollari. Oh, e vabbè, giusto per passare una serata così, perché sennò altrimenti queste fanfaronate propagandiste. Oh yeah. Oh, apro l'articolo, pubblicità, e devo cercare l'articoletto in centinaia di righe di pubblicità. Sì, allora, a intentare causa alla Paramount sono gli eredi di Ehud Yonei, l'autore del racconto pubblicato nell'83. Praticamente hanno preso spunto probabilmente dal suo racconto, senza pagare le royalty per il secondo film di questo nuovo di Top Gun, e adesso hanno fatto causa. Sì, lì sono sempre cause milionarie, miliardarie in America, dove ci vanno pesante. E ogni tanto se ne sente qualcuno, è vero. American dollars. Infatti, vabbè, non voglio parlare di politica. Vai Natali. Fai lei. Comunque mi sa che il dollaro è sorpassato. Vedi, prendete voi che sono in cucina, il dollaro è? Ho detto che il dollaro è sorpassato, lo yen è molto al di sopra. Oh, i cinesi ci faranno le scarpe, barba, capelli, scarpe, tutto, anche il sedere ci faranno i cinesi. Ce lo stanno già facendo. Vai Gianni, bianco per me. E cazzo basta, sono sempre i bovaracci. Poi gli altri già non si preoccupano. Vabbè. I soliti giochi di potere, i pesi massimi che bisticciano forte, oh yeah. Che dire, vai. Un argomento troppo vasto, va. Però c'è da dire che sono simpatici, dai, non danno fastidio a nessuno. Perlomeno quelli che sono qua, che hanno due o tre negozi qui a Polo Torres. Persone gentilissime, molto educati, non danno fastidio di nulla, se si stanno integrando molto bene, davvero. Già è gente di mondo, vabbè, poi tutto il mondo è paese. Anche qua vicino sono dei piccoli bazar, ogni tanto vado a comprare qualche spinotto, qualche caffetto e niente, persone molto educate, tranquille, battutine, sono persone di spirito, dai. Non sono tutti così. E devono pensare che devono restituire tutti i soldi che hanno preso dalla mafia cinese, per quello sono tranquilli. È vero, è vero. Caspita, come fanno a comprarsi tutto? Capannoni interi, negozi, tutto, si stanno comprando tutto. Miseria del mondo, oh yeah. Oi. Che sono fatte le 17. Oh yeah. Adesso Marco con l'accusa dei fornelli mi sta aizzando anche a me ad alzarmi dal letto a preparare qualcosa. Marco, fai una cosa, prepara due porzioni, poi chiamiamo di Glove e mi fai regalare la piattanza. Beh, signori, io vi saluto e mi ritiro in buon ordine. Ci sentiamo alle prossime, là. Ciao Natalino, ciao. E non toccare nulla, che stai adesso c'hai una radio ottima, bella, pulita. E ok, ciao, ci sentiamo alle prossime. E anche io tra un po' mi chiudo qui e faccio qualche cosa anch'io. Ciao Natali, dai. Magari ci aggiorniamo più tardi se ne hai gana. Vediamo un po', dai. Anche io mi sgancio un attimino dalla radio, vado a bermi qualcosa di fresco. E niente, dai. Ti saluto Claudio, dai, ci sentiamo magari o più tardi o alle prossime. Dai, grazie per le chiacchierate e ci aggiorniamo. Buon proseguimento di serata. Ciao Gianni, ci sentiamo magari più tardi. Ciao, ciao. Prego. Attenzione, canale 10, isola della Sardegna, fa chiamata e si sintonizza l'ascolto, brecco. Langue. Ciao Marco, non sei uscito oggi? No, in dove? Io c'ho mamma, sto facendo il badante. Nel pomeriggio eravamo quattro in radio. Un silenzio assoluto, hai visto la propagazione calma piatta rispetto a ieri, era veramente un incubo, anche eccessiva era, fino a l'una di notte, tipo Germania, Santiago 9 più in FM. Già li ho sentiti, poi mi ha detto anche Giulio che hanno collegato diversi posti. Sì, io l'ho acceso ieri sera, ma l'ho acceso tardi, dai, perché stavo facendo roba. E niente, e vabbè, io ce l'ho quando posso. E quindi, ma è allettata tua madre? Beh, proprio allettata no, però cammina col deambulatore, per certe cose ha bisogno di aiuto, ecco. E quindi, altro che mare, a parte che sì, il caldo sta soffrendo troppo, quindi non andrei comunque, credo. Sì, vabbè, ma se stai in acqua già stai bene, dai. deambulatore, ma perché si deve operare le gambe, non si è mai operata lì. No, ma un'altra cosa era, poi era stata ricoverata un mese circa per un'altra patologia, un'ulcera, eccetera eccetera, quindi è uscita indebolita molto, no? Con qualche piaga un po' da decubito, che è guarita, sta guarendo, certo. Bene, e quindi sono abbastanza casalinguo. E vabbè, usa Roma per le piaghe, che te lo farò passare subito, lo usano anche in ospedale quello lì. E vabbè, non so, quando sono anziani, ma che così, chissà che finiremo lui. Lui, se sono messo già male così, meglio non invecchiare, guarda, parlo per me almeno. Bene, e quindi poi un po' ci sono un po' stancati, un po' tutti magari volevano riposare, io ero qua sul divano, mi bello, col cuscinetto, il ventilatore soffitto, però se non mi fulmina. E niente, dai. Si sono addomesticati bene i gatti, Marco? Il gatto è facile, una volta che c'è la sua acqua, la sua sabbietta. Cosa intendi tu per addomesticarti? Intendo che non siamo selvatici, perché fuori. Sì, sì, guarda, uno era già un gatto di se ne usciva dal giardino e se ne andava in giro. L'altra era un Flo, quella di Porto Torres, era sempre un gatto casalingo, per nata, da giovane, perché era incinta, capito? Quindi per risolvere il problema l'hanno buttato in strada e è risolto il problema del gatto incinta, capite, Porto Torresi. Meno male che conosci la storia, ma conoscivi quelle donne che vanno a dare da mangiare? Sì, sì, una ne conoscevo, questa sapeva quanto aveva il gatto di età, sapeva anche il nome, però chi l'ha abbandonata non si sa, è strano, stavo pensando che non l'avesse abbandonata lei, magari non poteva, non potendo farsi carico dei pargoli o dell'eventuale operazione, l'ha mollata lì, dice li porto da mangiare, però la lascio fuori. Perché poi tutti gli altri gatti erano infetti, avevano là, quella che li prende gli occhi ai gatti, come si chiama? Può essere la clamidia. Poi ci murro, boh. No, no, clamidia mi pare sia, li prende gli occhi. E poi lei, sai, non era del gruppo, quindi non era accettata ancora. Era una gatta di casa, d'altronde, poveretta. Naturalmente anche noi non potevamo farci carico di gattini, perché poi nessuno ne vuole nemmeno. Quindi quelli sono stati soppressi, lei è stata sterilizzata, però è con lui. Che bella che è. Purtroppo c'è gente che, ma lo sai che su Facebook hanno messo questo qua che metteva i bocconi e i cani, no? E ha ammazzato diversi cani, io gli ho scritto a trovarlo sul fatto, bisognerebbe tagliargli le mani, ma a modo di dire, lo hanno bannato su Facebook, perché ho scritto una frase oltraggiosa, nel senso una frase che praticamente potrebbe portare ad essere, come si dice, violenti, alla violenza. Sì, è come YouTube, incitamento all'odio e alla violenza. Quando non vogliono rompere, tagliano direttamente la persona fuori. Vabbè, invece di essere tutti partecipi e dire io a cercarlo questo, lo becchiamo e lo denunciamo, ma per carità. Modo di dire, perché era incazzato, perché ha ammazzato un sacco di cane, capito? È un modo di dire. Vabbè. Comunque mi hanno scritto questa storia che se io non lo leggesse nessuno andava bene, se no praticamente vado fuori, allora ho accettato, cosa devo fare? Sì. Però peccato, il commento doveva avere appunto quell'effetto lì, di sensibilizzare le persone, non incitarle all'odio. E comunque sì, anch'io gli avrei detto che tu possa fare la fine del cane, gli avrei scritto a quello che è Bocconi. Sì, qualcuno gliel'ha scritto. Sì, perché a uno possono non piacere gli animali, e lo capisco. ma che addirittura uno che non vuole cani in zona, non vuole gatti in zona, vada a avvelenare il cibo, è una cosa che non concepisco. Vabbè, noi siamo stati sempre amanti degli animali, che altro gatti, perché sono meno impegnativi già. Il cane no, il cane lo ritengo impegnativo. Va bene. Ma il cane ti fa socializzare, conosci un po' di gente, ragazze, ragazzi, ti dà l'appuntamento per il giorno dopo, per trovarsi giù a giocare i cani, insomma, diciamo che è impegnativo, ma ti sprona anche a uscire, Marco, invece tu sei sempre dentro casa. Sì, magari quando voglio veramente uscire già esco. Però no, per il cane no, sì, è vero, fa conoscere gente, per fare cingomma, poi da caso strano come c'è, quando ho fatto il lockdown, sono comparse un po' di gente che prima non aveva mai considerato cani, mai avuto cani, tutti col cane, poi decide di casa io. Ci credo o non ci credo, dai, comunque col cane si poteva uscire perché doveva fare i bisogni giustamente, non poteva farli fare in casa, no? E vabbè, adesso dice che vogliono fare una legge praticamente che vogliono ritirare tutti gli animali esotici, non si possono più tenere, sono tutti fuori legge. Ma un'altra se ne stanno inventando. E chi è la brillante mente che ha fatto la proposta? Ma questa non lo so, la proposta è stata fatta e è solo da provare. Praticamente tutti gli animali esotici, compresi anche i pesci d'acquario, pappagalli, scimmie, tutti gli animali esotici, serpenti, tu pensa quante vite chiudere perché c'è gente che ha negozi di animali, gente che mangivi per questi animali qua, insomma c'è un giro allucinante, se dovessero fare una cosa del genere sarebbe una perdita mastodontica, a parte l'affezione che hai per un animale, poi sarebbe, io penso che non l'approvino però. Ah, l'uccello mio non è esotico, è sassarese. Ciao Claudio. Questo fa parte della pasta, degli gnocchetti. Allora, non è esotico il mio, non frega niente, il mio non lo toccano, non si arrangiano, peggio perché ce l'ha esotico. Ia ia, avanti Marco. Comunque, se dovesse passare una follia del genere, io spero che chi ce l'ha già l'animale esotico glielo lascino, cioè che magari vietino la vendita anche se non mi sembra giusto, poi ti dirò una cosa. Ma e cosa fanno? Vediamo, vengono i carabinieri e ti fanno consegnare i pappagalli, voglio proprio vedere, ci dia l'uccello, ti dicono. No, no Marco, questo non lo so, però penso passeranno come cosa illecita, non la puoi più tenere, capito? Malgrado, per dire, i miei pappagalli hanno tutta la documentazione CITES che è praticamente la denuncia di proprietà dell'animale, capito? Che tu devi presentare al Corpo Forestale dello Stato. Quindi hanno tutti i documenti, tutte le cose relative a quell'animale, microchip, eccetera, eccetera, c'hanno tutto. Quei pappagalli non li puoi tenere se non c'hanno i CITES. L'uccello è mio e lo gestisco io. Giusto. Ciao già. Comunque, già, sai perché lo fanno? Perché forse per quelle specie tipo certe tartarughe, no? Quelle che poi diventano grandi e che sono aggressive e che distruggono un ecosistema come può essere il nostro, invasive anche le tartarughe, magari i bambini se le prendono da piccole, papà, papà, voglio la tartarughina, poi cominciano a crescere, se ne disfano, magari le buttano in qualche stagno o laghetto, poi quelle diventano delle bestie ed essendo aggressive cominciano a far fuori le altre specie locali. Ecco perché forse vogliono fare una legge del genere. Per quegli animali che se vengono persi o volontariamente dispersi nell'ambiente possono far danno e uccidere le altre specie. Vai profeta. Leia, vi siete parlati sopra con Gianni, buonasera a tutti. No, no, non ero io, ciao Gianni. Ero io già. Ho letto una torta di immagini già, se vengono a casa tua e mettono le manette al tuo uccello. Davvero? ma in casa non sento, non ti preoccupare. Se vengono a casa mi fanno un danno di milioni, non ho capito. Vabbè, adesso comunque 5 li ho già venduti, adesso ne ho 4 nel nido. Ma non ha proposta, proviamo le cerpasse, perché ci sono i mezzi ostentalisti. E quella è la rottura di balle, capito? Fra un po' manco il cane possiamo tenere a casa, perché vogliono che li lasciamo liberi. Chi non ha il giardino entra in appartamento, sarà un'altra proposta di legge di quella zoccola ex parlamentare, quella di attuare, che segue liberi luci, capito? Il cane va a avere il suo spazio, dentro l'appartamento non può più stare, no, va in picca di vai. Va bene, sono entrato a salute, c'è gente fu che si stanno abbeverando, pesco anch'io, vai. Ciao Brofetta, ciao a Gianni Doppio e a te Benny Marcucci. Villano. E Isa Brambilla, avranno una proposta di legge, un emendamento per appunto vietare dentro l'appartamento, vabbè, lo spazio, grande giardino, capito, casa che tutti il giardino vanno, e chi non c'ha il giardino e il cane lo vuole tenere dentro casa e amarlo lo stesso e curarlo lo stesso, non lo può fare, cazzo, non lo complisce. Io ho tenuto 8 anni dentro casa, Gianni c'era lo stesso un sacco di tempo dentro casa, beh, non è curato, servito, reverito, non lo lega, lascia fare quella tutta pazza. Oh Claudio, un attimino, siccome il profeta stava facendo un'azione di pulizia di PL, disossidamento, eccetera, eccetera, guarda se il segnale suo è normale. Eccomi. No, sono salito a controllare tutto, a fare un po' di... Ho fatto un tagliato, dai. Non sto cambiando radio, e questa non è molto generosa. C'era molto generosa, è precisa, ma voglio vedere il segnale col digitale a vedere. Aspetta. Sì, e tu Gianni lo stesso, guarda se fa posto Gianni, se gli segnali solito. Ma io ho 3009, Marco, tu lo sai che c'è. Prova, Rubrofè. Eccomi. Facciamo una prova, vediamo cosa dice l'aghetto dello strumentino di Carlo Sparviero. Mi sembra qualche punto esce in meno, non sei segnato tu nel mio log dei segnali, però avevi un 9.5 pieno, non ci arrivi a 9.5, sei molto più basso. Male, molto male. Anche da te Marco. No, da me identico, l'ho guardato attenuato ed identico. Capito, Alfonso, molto male, non hai fatto bene il tuo lavoro di disossidazione. Il profumo, il gornicione, mi sa durare. Ho stretto bene il PL, ho controllato tutto, non ci sono pieghe stravaganti e tutto. Dove ti dica, prendila come così, niente di che, di 9.5 stabile prima, adesso sì 9 con picchi positivi a 9.3, diciamo, dai. Non è che sei calato tantissimo, però io mi ricordo avevi un ottimo segnale, a meno che non stavi usando qualche altro baracchino con più potenza. Non lo so, adesso sto usando l'Uranus con 4 watt, poi non so se avevo fatto, se tu avevi memorizzato, avevi memorizzato praticamente il mio segnale con l'altra radio, questo è difficile da dire. No, non ti preoccupare, allora è con l'altra radio, perché cambia anche la modulazione. Non stai usando l'M, quello della ZG microfono? No, microfono palmare normale e Uranus 4 watt. Ecco, allora non ti preoccupare, tutto a posto. L'Uranus è leggermente più basso, mentre l'altro c'è 9.5 pieno. Con l'Uranus perdi proprio 2 puntini, niente di che. Tranquillo, sereno e pacifico, il cornicione l'hai pulito bene. Guarda, se mi dai un minuto... Attacco l'altra e vediamo, ci leviamo subito il dubbio. Fai pure, ti aspetto e poi esco fuori, dai. Dai, fate ragazzi, nel frattempo faccio il pit stop. tappa, e quindi la cara Brambilla, la vedo sempre in TV, almeno se la guarda mamma, è sempre lì tutta eterea, qua gli animali, cioè, esce in appartamento, cioè, vabbè, lasciamo perdere, poi vorrei capire gli animali esotici, vabbè, e cosa fai, li liberi, dove li mettono? Li mandano nella natura a morire, certi animali non sono abituati, sono abituati anche alla gabbia, purtroppo, non possono sopravvivere con i predatori nostri magari, poi vai Gianni, doppio rum. E poi gli animali che sono abituati a vivere in gabbia non sanno cercarsi da mangiare da soli, quindi è morte sicura, non è possibile che facciano una cosa del genere, guarda, anche perché chiuderebbero fabbriche di mangimi, tutte queste cose qua, negozi di animali, perché quasi tutti gli animali che vendono nei negozi sono esotici. Sì, ma infatti così affosseresti un'ennesima categoria di venditori. Cioè, cosa fai? Pesci rossi e criceti e boh. E poi gli animali gira, sono quasi tutti esotici, roba di fuori, no? Vabbè, ogni tanto se ne pensano una, mi. Già al circo gli avevano rotto le balle per gli animali sfruttati, maltrattati, qui anche il circo lo stavano ostacolando. Boh. Che te devo dire già, un po', vedi, io un po' già sono così, cioè io uccellini li vedo troppo male in gabbia, in casa, per quello non li comprerei, preferisco sapere che sono nella natura, però nascano già non cattività che poi li molli fuori, che nascano già nei posti d'origine e vivano felici la loro vita, boh. I gatti, vabbè, sono più domestici, anzi il gatto gli piace stare in casa. Eccomi qua, sono tornato. Marco, io ti dico una cosa che dipende anche da come li tratti gli uccelli. Io per dire li faccio uscire dalla gabbia, giocano con me, è tutto un altro tipo di allevamento. Io ho avuto anche i canarini sono esotici, i canarini sono esotici lo stesso. Beh, che devo andare, poi continuate. Sì, Gianni, segnale 9 più 5 pieno con picchi positivi, anche 9 più 5 più, capito? E la radio è completamente diversa dall'altra. Ottimo per la truppa, allora era quello il segnale che ci avevo di riferimento io. Bella mossa, dai, così ci siamo levati un dubbio. Thank you very much Claudio, dai, adesso sei libero di andare alla Granfiglia. No, sto colorando un frigo, ma grande già, di quelli che si attaccano a 12 volt e anche a 220. L'abbiamo attaccato fuori a 220 e abbiamo messo un po' di lattina per essere rinfresca, cazzo, sono già ghiacciati. Grande, l'ha portato mio genero per provare, perché ce lo portano quando vanno al mare loro. Ma bello, grande, allucinante, molto bello, sembra un trolley quasi. Lo stiamo provando, adesso vado a vedere se si è rinfrescato. Vai. Ci sentiamo ragazzi. Ciao Claudio, ci sentiamo. Ciao Claudio, buona serata e buon tutto. Vai Gianni. Ok dai, una sciaguba è questa radio, no? Quest'altra radio. È più forte la modulazione, ma ha più watt? 8 watt, quasi 9, dai. Ah, io credo ne avesse 4, 5 come l'altra, invece di più. Ehi, continuate un attimo che mi chiama mamma. Ehi, Gianni, questo qui cosa è? Giuppi? Ehi, il Jopix con l'M95. Questo già va bene, questo qua è bella forte. Non che l'altro andasse male, ma questo è più forte. Qua gli ho aperto la LC, anche nell'Uranus, e gli ho toccato i vatti, ma non ho aperto tutto, perché se l'ho aperto tutto, a fine corsa, il trimmer praticamente ho notato che mi dava i picchi di modulazione negativi, quindi l'ho chiuso un CC e l'ho regolato per 8 watt circa, e vedo che lo smitter è allegro, dai. K, va bene, dai. Tutto bene ciò che finisce bene. Era ben ordinata, l'hai? Ancora no. Oh, c'ho la testa piena di altri pensieri. Adesso vediamo, dai, magari questa lunedì o martedì carico la post pay e non se ne va da più. Lo sai cos'è, che se fai paura magari fare spese perché poi ti esce un'altra spesa improvvisa, poi è un casino, adesso come adesso è un casino. Sai cos'è, che effettivamente siccome cioè, non si hanno feedback, cioè si hanno pareri, commenti da altri che praticamente hanno sicuramente hanno anche altre radio, insomma è un po' tra virgolette un acquisto al buio, capito? Cioè, perché poi magari ti ritrovi a spendere quei soldi convinto di guadagnare chissà che cosa e poi a lato pratico invece praticamente non sembra quasi nulla a me. Se tu stai prendendo l'avveno vai tranquillo perché c'è la Franco California, arriva bene da tutte le parti, c'era sia lui e sia Giovanni di così Plattamona. Ecco già Franco, la 5 ottavi, conta che Franco è molto in alto, molto molto in alto. Sì, 5 ottavi, è un po' più su di me mi Franco, non è che sia in alto, chissà quanto. Ah, non varia tantissimo rispetto a te, è comunque una bella zona lì, immagina dal tetto quello che vede, è come te, da. No, tu immaginati la mia via, la fai tutta quanta dritta e cosa sarà, un 150 metri più avanti. Io ero da mamma e mi ero distratto, eccetera. Bene, allora già questa Venom che fai, l'acquisti? Ma 5 ottavi sì, perché le medie misure sono sempre un po'... Cioè per quello che costa, anche se ricordi cosa ti dicevo, per 10 euro in più c'è la Silvio. Sempre, vabbè... La Sirio però c'ha radiali che sono lunghi 1,30 m, sono dei grandi. No, Marco, no, troppo barrasone, roba del genere. No, come stavo dicendo a Gianni, cioè, magari uno si crea false aspettative, dice, cazzo, buon guizzatra, chissà cosa tutto si guadagna, poi alla fine, cioè, stiamo parlando di cose veramente infinitesimali. Sì, dB, decibel, come li volete chiamare, dB è l'abbreviazione di decibel. Sì, cioè, rispetto al quarto d'onda potrebbe avere 2 dB, la mezz'onda, la 5 ottavi potrebbe avere 3 dB, decibel che sarebbe mezzo Santiago rispetto al quarto d'onda, ecco, non a Santiago interi. Poi ce ne sono certe fatte bene, per esempio mezz'onda Grazioli e 50 Grazioli c'hanno, e anche quella che ha Claudio, come si chiama, quella da Tech System, quelli sono materiali di prima scelta, tutto fatto bene, le vitrerie, l'alluminio di buona qualità, non risparmiano sul materiale, però grazie a Dio poi vai a vedere. La Grazioli, una 5 ottavi 200 euro se non di più, una mezz'onda 150 euro, oh. però vedi, ti dura una vita con quella qualità dei materiali, capito? Vabbè, certo che sì, via. Boh, non lo so, che ve devo dire? Gianni, che te devo dire? Vedi tu, se te la senti o non te la senti, vedi tu. No, qualche cosa sicuramente cambierà, se tu metti un'antenna più performante penso che qualcosa di segnale cambi, naturalmente anche quella che hai va bene. A voglia, cioè un conto è passare da un'antenna di macchina a 5 ottavi, ma già la boomerang, anche se è un quarto d'onda, fa il suo dovere alla grande, cioè capito, più le differenze risultano minime e di conseguenza come si dice, il risultato che ottieni è veramente, tra virgolette, impercettibile, ecco, cioè io non è che sto usando chissà che cosa, c'ho due baracchini, un microfono e un'antenna normale, cioè non penso che montando chissà che cosa cazzo inchiodi lo smetterà qualcuno. Ma Doppio Room non l'ha vista come è fatta la bobina della Venom? Io la Venom l'ho vista e l'ho toccata anche. Ma te la Venom e dimmi com'era, se è uguale a quella che di cui l'ho fatto io. Vulcanizzatore e tutto quanto, ho visto tutto, l'ho vista, sì. No, ma com'è fatta? Descrivimela. Adesso non me ne ricordo, non ce l'ho in mente, però l'ho vista, l'ho toccata anche. Guarda, adesso ti faccio vedere, penso che siano le ultime Venom, no? Quelle recenti. La bobina com'è fatta? Ti mando una foto. Io non avevo mai visto niente di simile, vabbè che economica, no? Vabbè, faccio prima a mandartela, così è un'idea. Io non me lo ricordo, Marco, l'ho presa anche in mano, figurati, per tenere la precarietà vulcanizzata. L'ho presa anche in mano. E rispetto, io credo fosse una cosa tipo Sirio, tipo Energy, no? Midland, invece no. È qualcosa di più orripilante. Però funzionicchia. Certo, 1000 watt che dicono che sopporta 1000 watt di EP, non ci credo manco per le balle, non esiste. Poi bisogna vedere, come stavi dicendo tu giustamente, Marco, con le prime piogge, insomma, come va a finire quella bobina a bagnomaria? No, però basterebbe, perlomeno sopra, nastrare il punto tra l'ostello di alluminio e la campana di sotto, lì quella fessura, nastrarla in modo che da sopra non entra niente, da sotto al limite se c'è una fessura può scaricare o far uscire l'umidità al limite. L'importante è che non entri da sopra, lì dove c'è lo stelo, e non si riempia, tipo acquarietto. Hai una girata magari di silicone, di quello silicone buono, una passata di ghisso. Oh, non mi ricordo che fosse così, se non è che hanno fatto le ultime così. Sì, guarda, ho letto un post recente di uno che l'ha comprata proprio da Amazon, no? E la descrizione corrisponde, io la foto l'ho trovata dopo, ho visto, dice, la bobina dentro praticamente un rocchetto di cartone, lui l'ha chiamato cartone ma può essere quel materiale, un rocchetto di cartone, c'è un tubo di cartone con un filo sottilissimo avvolto, e nella foto che io ho trovato poi, quindi sì, è rivestito col del nastro, quello termorestringente, quello che è, però cazzo, cioè, guarda, è una cosa minuscola, l'anima del risparmio, però funziona, finché funziona, funziona. Sì, perché Franco arriva bene a tutte le parti, ma quello lì basta, secondo me, basta appaddare una passata di silicone trasparente attorno e non entra più l'acqua. Sì, ma o silicone magari, però magari col calore tende a colare dentro, è peggio. Io li metterei dove c'è quella campana nera, no, che tiene la bobina in basso, tra lì e lo stiro una nastrata di vulcanizzante, tutto lì. È comunque interessante, per il prezzo che ha, comunque fai che sia un'antenna di ricambio, un'antenna per postazioni temporanee, per emergenze, tocchiamoci le balle. Con questo Putin non sa mai come va a finire, ma Putin, sì, Putin, stavo per dire Putin Biden è la stessa cosa. Marco, però io così smontata non l'ho mai vista, probabilmente non ci ho fatto caso per quello, non l'ho mai vista così smontata la bobina, io l'ho vista intera, tutta coperta, capito? Ma infatti io credevo che in quel cilindro che c'è tra le staffe, no? Cioè il prolungamento del tubo in alluminio, dentro quel tubo in alluminio ci fosse una classica bobina tipo la mia, no? Però nascosta, non a vista, invece no, proprio nella base c'è questa piccola, l'antenna è cortocircuitata a massa e quindi almeno per le statiche è protetta, almeno quello. Allora Franco, da quando l'ha piazzata era 1-1 di stasera su tutti i canali, quindi non l'ha manco toccata, come l'ha piazzata l'ha lasciata, non l'ha dovuto regolare manco le stazionarie, niente. E va bene, io aperta così non l'avevo mai vista, non ci avevo mai fatto caso. Mi ricordavo che era qualcosa di chiuso, però non era del trasparente né niente, però così aperta non l'avevo mai vista. Sì, corrisponde, quello delle stazionarie basse, vai 40 sotto, 1-1, qua sull'80, 1-1, vero il profeta? Certo che sì. Però il fatto che abbia stazionarie basse su un carasso di canali qualcuno la vede come una cosa positiva, però potrebbe essere anche una cosa negativa, e che vuol dire che l'antenna magari ha una bassa efficienza, cioè è come un carico fittizio, ti fa vedere stazionarie basse inesistenti, però l'efficienza poi è poca. Comunque il prezzo, comunque già una cosa ti dico, anche doppio room, io quando ho avuto la Dingola a 39 euro l'ho tolta per disperazione dopo un anno. Ripeto, io ce l'avevo sul palo da 6 metri e Sandro non mi sentiva da produttore, quando ero liscio, non mi sentiva. Metto il palo a 3,70 m, metto la Energy 5 ottavi e mi sentiva senza problemi. Quindi quella lì, quel cacchio di cosa della LEM, la Ringo della LEM, lavorava veramente male. Guarda, Danielina me l'aveva prestata, l'ho tenuta un paio di settimane, nera cibugata, poi come prende acqua, lascia perdere, no, assolutamente pollice avverso. Sì, la Ringo è nominata perché si riempie d'acqua, come piove si riempie d'acqua, è nominata come antenna per prodotti puliti. Sembra una bella antenna, però in effetti la problemi. No, Franco ce l'ha montata già da un po' e le va bene. Non le ha mai dato problemi. Sì, ripeto, la Grazioli mezz'onda è spettacolare, è una Ringo praticamente, però c'ha questa meravigliosa bobina vista, c'è proprio un materiale di prima scelta. Naturalmente, come tutte le cose fatte bene, ce la fanno pagare di più. Ok, io adesso stacco un attimino, vado a bere, perché sto asciuttando, come si suol dire già. Riprendi. La Grazioli fa delle ottime antenne, io le ho viste, ma la buloneria che c'hanno, solo a vederla smontata ti metti le mani nei capelli. Dipende da tutta una serie di fattori già. Cioè, a me sinceramente di spendere 150 euro per un'antenna, cioè non ho grandi pretese, cioè l'importante è che poi ci si senta, che le modulazioni siano comprensibili, che si esca con un buon microfono, che abbia un bel suono, che la voce risulti calda, bella chiara e ciccia, poi se no cazzo non riusciamo più, il solito cane si muove la coda. No, non mi posso permettere di fare investimenti del genere, capisci? Quindi non, ecco, cioè, nel senso, per come sono messo mi sta più che bene e quindi sono un po' restio a spendere soldi così, mettendomi in testa delle aspettative che poi praticamente non si, cioè, come te lo posso dire? Cazzo, mi stavo facendo una battuta in sassarese, va bene. Ehi, non si realizzano le aspettative. Che non ci sono differenze tra l'antenna che c'hai e quella che compri. Ho capito quello che vuoi dire. Ecco, e quindi, insomma, preferisco comprare il microfono tipo quello che ha preso Marco, quello che hai preso tu, che è già un acquisto più, che ha più un senso, dai. E poi le tasche tue lo sei solo tu, quindi ognuno si regola in base a quello che può fare, non si può fare il passo più grande della gamba. Avanti Marco. Sì, conta che io per avere la misera Energy 5 ottavi, la New Energy, io l'ho pagata un po' di più perché l'ho presa alla GBC, cioè io la volevo vedere de visu, prima di comprarla la volevo vedere fisicamente. Lui ha aperto la scatola, lì ha fatto vedere, ho visto lo spessore della bobina, ha detto vabbè tanto io non sono chilowattaro, massimo posso mettere 100 watt SSB e quindi andava bene, però 90 euro non è poco, da fuori costa una sessantina più spedizione 15 euro e certi anche 20 ti fanno pagare, quindi ci avrò risparmiato quei 10-15 euro in più, magari l'ho pagata, ecco, non ho risparmiato tantissimo. No, potevo anche risparmiare, ma non tantissimo. Io invece quando ho comprato la LEM ho risparmiato, perché con spese di spedizione e tutto costava di meno, ma con spese di spedizione e tutto mi veniva di più di quella che me la dava Fusaro, quindi di Fusaro mi ha fatto uno sconto, costava 180, l'ho pagata 150 e mi è andato bene così. Quella però è, vedi, una bella bestia, una 5 ottavi full size, tanti radiali, eccetera eccetera, è come le Mantova quella lì. Non ne ha tanti, ne ha 4, ma... Sì, 4 sono tanti, io ne ho 3. Ne ho 3. Da 1,30. E tuoi, quanto sono i tuoi 1,30? E poi non mi ricordo se nella tua erano alluminio o fibra caricata. No, i miei sono due radiali di alluminio, uno unito all'altro con un abito passante. Sono due radiali di alluminio, penso che siano 2,75 quel radiale. Ah,